versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Oggi battiamo tutti i record negativi. Mancano 30 secondi alle 16.39 e quindi questa brevissima interruzione tra una pubblicità e una comunicazione di servizio, il nostro appuntamento quotidiano, la versione di Oscar. Auguri che si chiama Leone, perché oggi è San Leone. Vado subito al punto per chiedervi se volete telefonare all'800 24 00 24 o mandarci sms al 349 238 6666. La domanda è secca: avete visto nel fine settimana la notizia confermata, esplosa, a seconda di come la prendiate, quella delle dimissioni di Napolitano, il capo dello Stato, praticamente ufficiose, ma verranno a fine anno col suo messaggio? La domanda che vi faccio è: bene, male secondo voi, con tutto il casino che c'è, ci aggiungiamo anche questo, opportuno davvero? E soprattutto, cosa vi aspettate, visto che c'è un caos micidiale tra Forza Italia, PD, 5 Stelle sulla legge elettorale? La logica forse avrebbe voluto prima un accordo sulla legge elettorale, poi quella stessa maggioranza più ampia si eleggeva il capo dello Stato. Mi pare molto elevato il rischio che non ci sarà accordo sulla legge elettorale e a quel punto si inizia il ballo con i tiri ai candidati e alle manovre interne di partito per il capo dello Stato in arrivo, perché come evidente Forza Italia ha una minoranza molto combattiva che vuole evitare ogni accordo perché ha paura dei voti che le ruba a destra Salvini e la Lega, e quindi chiede a Berlusconi: tirati fuori da ogni patto. I 5 Stelle sono freschi d'aver compartecipato per la prima volta alla scelta di candidati per il CSM, la professoressa Sciarra, negano però di volere fare un vero e proprio patto con il Presidente del Consiglio, e insomma il caos è attualmente molto forte. Vedremo nelle settimane prossime. Vi dico solo, ve lo richiamo, stamattina la confusione è tale che i due maggiori quotidiani italiani, per copie vendute in edicola, perché se ci aggiungiamo gli abbonamenti digitali Il Sole 24 Ore ormai batte anche Repubblica, ma avevano opinioni contrapposte, nel senso che se andiamo a vedere Repubblica stamattina apre con Renzi ultimatum a Berlusconi, il premier accelera sull'Italicum. Se invece prendete Corriere della Sera, ancora più chiaro la stampa diceva: legge elettorale verso il rinvio, quindi enorme caos anche per gli addetti ai lavori, visto che si danno letture totalmente contrapposte. Allora, voi chiamate per dirci se è opportuna questa, era attesa, ma se è opportuna in questo momento questa dimissione con un nuovo fronte che si apre, che cosa vi aspettate? Nel frattempo noi però chiediamo a non solo un addetto ai lavori, ma insomma una delle figure che più ha cooperato con consigli tecnici, anche con delle riserve talvolta, sulla nascita del modello di legge elettorale intorno a cui ci sono i cantieri aperti, il cosiddetto Italicum. È con noi anche questo pomeriggio, come più volte nei mesi scorsi, il professor Roberto Dalimonte, che insegna sistema politico italiano alla LUIS di Roma ed è anche editorialista al Sole 24 Ore. Buon pomeriggio e grazie professore. Buon pomeriggio a lei. Lei lo dava per scontato che saremmo andati a questa conferma delle dimissioni del Presidente della Repubblica? È Napolitano è una persona di quasi 90 anni, ha diritto. Addiritto. Allora, ha diritto di passare la mano. Quello che le chiedo invece, andando alla legge elettorale, si leggeva che il capo dello Stato, pur avendo espresso fin dal primo giorno nel ricevere l'incarico la chiarezza di un mandato a termine, però la subordinasse a riforme solidamente incardinate e anche a una legge elettorale solidamente incardinata. Non mi pare che con la legge elettorale siamo invece a doverla considerare solidamente nella tasca di una maggioranza. Le chiedo, non era forse più logico prima fare un patto preciso sulla legge elettorale e poi trasporre quella stessa maggioranza per la scelta di un capo dello Stato? Non si rischia molto a fare il contrario? Ma non è detto che si faccia il contrario, Giannino, non è detto perché dobbiamo vedere nei prossimi giorni cosa succede. Lei ha parlato di incertezza, di confusione, in realtà è così. Noi non sappiamo veramente che cosa farà Renzi, se spingerà fino in fondo e costringerà Berlusconi a prendere una decisione in tempi brevi, o se gli darà un pochino più di tempo per far digerire. Aia, il collegamento diventa cattivo. non la sentiamo più, vediamo un po' se riusciamo a ripristinare il collegamento, fatemi sapere dalla regia mentre lo state richiamando. E nel frattempo io anticipo che una delle valutazioni intorno a queste modifiche della legge elettorale non è esattamente secondaria, perché voi sapete che da una parte c'è il convincimento che è emerso nella testa del Presidente del Consiglio di chiedere un premio di maggioranza, non più di coalizione, come era nella versione originale, testo Camera della legge di riforma elettorale, bensì un premio al partito maggiore della coalizione. Come ovvio, questa cosa cambia moltissimo, perché è ovvio che avvantaggerebbe attualmente il partito che nei sondaggi è molto più forte degli altri, cioè il PD. La seconda modifica di fondo che crea problemi è quella sulle soglie elettorali, e ricordate che nell'impianto originale, anche qui testo Camera, c'erano tre soglie elettorali diverse, a seconda che i partiti andassero soli per la coalizione e dentro la coalizione. Adesso si tratterebbe di, e quindi le soglie erano dal 12 all'8 eccetera eccetera, mentre adesso si tratterebbe di una unica soglia sia all'interno della coalizione sia per chi va solo del 5 o addirittura del 4%, perché NCD chiede sotto il 5%. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando e vi ho chiesto cosa pensate della conferma della dimissione del capo dello Stato, il messaggio di fine anno insomma, e di questo accavallamento di confusione che c'è nei rapporti tra i partiti, tra la legge elettorale, l'accordo da prendere per le maggioranze necessarie a eleggere un nuovo capo dello Stato tra Forza Italia, PD e 5 Stelle. Abbiamo con noi il professor Dalemonte, vediamo se adesso si sente meglio. Io nel frattempo che era caduto il collegamento chiedevo, ma lei come la pensa sulle due modifiche sottoposte da Renzi a Berlusconi, cioè è quella, primo, su il pacchetto integrale del tetti necessari, 5% addirittura meno, abolendo i tetti più alti che c'erano prima, 12-8% e così via. E poi seconda cosa, al premio di lista e non il partito più forte della coalizione e non di coalizione. Ci sono innanzitutto dei problemi di costituzionalità, secondo lei? No, per me, io non sono un costituzionalista, però non vedo quali problemi di costituzionalità ci siano. Io penso che la modifica è una modifica importante, quindi capisco le reazioni di Forza Italia, perché non era prevista nel patto originale, il patto del Nazareno, però è una modifica positiva, l'ho anche scritto ieri sul 24 ore, sono molti buoni motivi. Poi, naturalmente, se non dovesse essere accettata, pazienza, si può tornare al premio alla coalizione, insomma non è questo, diciamo, il motivo per non far nulla, ecco, non vorrei niente su un'altra. Può dire ai nostri ascoltatori perché secondo lei il premio al partito più grande in una coalizione, anche se oggi c'è un solo partito molto più avanti degli altri, comunque ha un effetto sistemico positivo? Beh, perché elimina quell'incentivo alla creazione di queste coalizioni litigiose, spesso litigiose, per conquistare il premio di maggioranza. Ed elimina anche una, perché questo non sappiamo nel passato, no? Si formavano queste grandi coalizioni per cercare di vincere, che poi non riuscirono a governare. Invece con un premio alla lista la cosa è più chiara, sono i partiti grandi che si assumono la responsabilità di governare se vincono, quindi questo è positivo. Poi ci sono anche aspetti tecnici, per esempio il fatto che una volta col premio alle coalizioni si incentivavano anche la creazione di liste fasulle, come non so, Forza Roma, Forza Lazio, Forza Milan, No Euro, Per un'Italia Equa, tutte liste inesistenti che venivano fatte proprio per cercare di raccogliere più voti possibili. E poi ci sono altri motivi anche di nuovo tecnici, per cui tutto col premio alla lista si semplifica tutto. Però voglio dire, premio alla lista o premio alla coalizione, questa legge elettorale facciamola. Se si può fare col premio alla lista meglio, ma se si deve fare col premio alla coalizione va bene lo stesso. È logico continuare a pensare che dovrebbe essere però la priorità partire di qua, prima di far dimettere il capo dello Stato, oppure no? Ma senti, il capo dello Stato si dimette per sua decisione, quindi perché credo che non ne possa più, insomma, come dicevo c'è un diritto. Io credo che sarebbe una buona cosa anche per rispetto di Napolitano, che in fondo ha accettato quest'onere pesantissimo di un altro mandato, anche per rispetto a lui credo che i partiti debbano accordarsi prima sulla legge elettorale. Sì, però, io condivido, veramente... condivido quello che dici, mi sembra logico, insomma, di buon senso. Sì, esattamente. Allora, intanto so che ci doveva lasciare, quindi io la ringrazio di questo contributo sulla riforma elettorale e vedremo. Nel frattempo gli sms che ci arrivano sono su una forbice di opinione molto vasta, perché c'è, sì, chi dice, c'è chi dice, intanto la saluto e la ringrazio. Buon lavoro. Grazie, grazie. C'è chi dice meglio che cada tutto il sistema, c'è chi dice meglio che Napolitano si dimetta. Teniamo conto che c'è una forte critica anche verso il capo dello Stato tra molti ascoltatori e molti cittadini, questo chiunque per esempio abbia votato 5 Stelle e continui a riconoscersi nella posizione 5 Stelle ha una posizione ipercritica verso il capo dello Stato e si vede anche dagli sms che arrivano oggi. C'è chi dice Napolitano scappa come scrittino della nave che affonda, ma questo mi sembra un giudizio, questo è l'ele d'Aleco, ma è un po' pesante, io no, questo non lo condivido, pur essendo stato anch'io critico verso alcuni passaggi di Napolitano, ma il bilancio complessivo mi sembra di una posizione responsabile rispetto alle follie che si sono viste in questi anni da parte dei partiti. Sentiamo come la pensano invece alcuni ascoltatori che ci hanno telefonato, cominciando da Carlo che ci chiama da Genova. Prego Carlo. Buonasera signor Giannino e saluto i radioascoltatori. Vorrei proporre la legge elettorale, è così, ecco, in poche parole, cominciare dai comuni, sa, Genova ha i suoi, sì, Levante, Ponente, eccetera, eccetera. Prima di iscriversi a un partito, un check-up di sana e robusta costituzione, inoltre mentalmente a posto e anche economicamente indipendente. Durante il mandato, senza preavviso, un altro check-up. Poi, se vogliono fare il balzo verso Roma, benissimo, fermo restando i voti di preferenza. Mm. Una volta arrivato a Roma, candidato e quindi eletto con i voti di preferenza, cosa succede? Succede una cosa bella. Supponiamo che il primo partito raggiunga soltanto il 40%. Mm. Con il secondo partito arriviamo al 51%, cioè raggiunge il secondo partito 11 punti, pari al 51%. Nell'ambito del 40% e dell'11%, chi ha avuto maggior voti di preferenza deve essere appunto messo a amministrare il potere e non impossessarsene. Quindi lei insomma vorrebbe un meccanismo elettorale più trasparente nella corrispondenza tra scelte dirette dei cittadini e poi assunzione diretta di incarichi di governo. Uno dei punti delicati, si vede dagli sms anche degli ascoltatori oggi, è che come sapete nello schema della legge elettorale Camera, che su cui adesso si parla per modificarla sostanzialmente, le preferenze non ci sono e questo resta uno dei punti delicati, totalmente irrisolti. Sentiamo Francesco alla provincia di Milano. Prego Francesco. Buonasera, sono Francesco di Milano. Sì. Io sarò molto breve rispetto al signore che mi ha preceduto. Voglio dire, ma il nostro capo dello Stato ci serve a qualcosa? Cioè, non è possibile farne a meno, o comunque secondo me si risparmierebbe una marea di soldi se le potesse anche fare a meno. Per carità, non voglio essere antipatriottico, però... Però Francesco, le faccio una domanda. No, ma capisco, tra l'altro ci sono anche alcuni sms ascoltatori che dicono facciamo come il Belgio... più tempo c'è con le sedi vacanti di governo eccetera e poi ci si guadagna. Però Francesco, la domanda che le faccio io, come abbiamo visto nel corso del mandato, primo mandato e secondo mandato di Napolitano, altro che se il Presidente della Repubblica nel nostro zoppissimo sistema di forma di governo parlamentare conta e come, perché tutti i governi non figli di scelte dirette degli italiani alle elezioni, da governo Monti, governo Letta, governo Renzi, li ha scelti il capo dello Stato, quindi altro che se conta, non le sembra? Però se la scelta fosse più indirizzata verso il popolo piuttosto che dal presidente... Questo sono d'accordo, perché anche a me i governi non eletti non piacciono. Può essere necessario nelle emergenze, ma quando l'emergenza diventa sistema vuol dire che le regole ordinarie non valgono più. Quindi Francesco ci ha aiutato a mettere fuori un altro punto importante. Gianni da Bergamo, che dice Gianni? Buonasera Oscar Giannino, Gianni da Bergamo. Sì. Ecco, niente, io ho tanti anni che l'ascolto, no? Siccome qua tutti parlano di cambiamento, anche Renzi, che adesso sembra che la gente stufa anche di Renzi, io le dico, la cosa che io sento veramente per un cambiamento, per mettere un presidente, sì, che a me sono un concesso che possa servire, vediamo che serva, è lei, Oscar D'Amico. Ma... No, da, Gianni, su, siamo seri, abbiamo un... io ho già dato e ho sbagliato e ho pagato, e quindi su questo faccio giornalista e sento le vostre opinioni, non nascondo le mie. Quando vedo che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni 10 miliardi di euro di tasse retroattive, perché questo è il conto, 10 miliardi di euro di tasse retroattive, mi viene la seguente riflessione: se Marchionne chiedesse a dicembre di quest'anno dei soldi indietro dagli stipendi che ha pagato agli operai, ci sarebbe la gara giustissima a metterlo al muro, a dire ma che sei pazzo, ma come ti permetti? Lo Stato fa questo con le tasse retroattive, però nessuno protesta. Ripeto, è come se la Fiat dicesse vi ho pagato 11 mesi, adesso me ne restituite 1,5 a fine anno. Lo Stato ce lo fa per 10 miliardi in 3 anni e continuerà a fare così, come c'è scritto nella legge di stabilità. Allora, purtroppo il tempo è finito, o quasi, tranne che Enzo da Carbonia sia brevissimo, accetti per solo 15 secondi. Enzo, ce la fai in 15 secondi? Sì, beh. Io credo che la scelta del Presidente di dimettersi sia un chiaramente richiamo alle forze politiche di approvare nel più breve tempo possibile la legge elettorale bipolare. Allora, un appello di responsabilità del Capo dello Stato. Vedremo se la raccoglieranno, io sono molto scettico, sentiremo nei prossimi giorni. Continuate con Radio 24, intanto appuntamento con me a domani.